Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un benvenuto da Maurizio Melis. Questa sera ci occupiamo di cogenerazione, ne abbiamo già parlato in passato qui a Mr. Kilowatt. E il professor Ennio Macchi del Politecnico di Milano una volta ha definito un crimine termodinamico non farla. Ma cosa vuol dire cogenerazione? Vuol dire produrre contestualmente sia energia elettrica che calore, tenendo conto che tutti i sistemi che producono energia elettrica a partire da un combustibile producono calore di scarto e che viceversa tutti i sistemi che producono calore, come le caldaie, possono utilizzarne, per così dire, la parte più pregiata per produrre anche energia elettrica. Insomma, la cogenerazione risponde a un principio fisico di ottimizzazione nell'uso dell'energia, o in altre parole, fare cogenerazione significa, a parità di energia elettrica e calore utilizzati, consumare meno combustibile. Cerchiamo allora di capire qual è il quadro normativo, fiscale, diciamo tariffario italiano rispetto alla cogenerazione. Ne parliamo con Giorgio Bergamini. Buonasera Bergamini. Buonasera dottor Melis. Direttore generale di Astrim, che è una società di servizi energetici molto attiva appunto nel settore della cogenerazione. Allora Bergamini, stasera ci occupiamo dei casi in cui c'è una caldaia, per così dire, e la si vuole sostituire con un generatore, in modo anche da consumare l'energia elettrica che si produce. In questi casi, quando però l'energia elettrica non la si riesce a consumare, quanto viene retribuita nel momento in cui la si mette in rete? C'è qualche tariffa speciale, per esempio? Non esiste una tariffa speciale, c'è una priorità di dispacciamento, ovvero una priorità da parte del CSE a ritirare energia elettrica prodotta con sistemi di cogenerazione. Quindi viene pagata al prezzo di mercato? Viene pagata al prezzo di mercato attorno ai 7-8 centesimi a kilowattora. Quindi diciamo che è importante, per quanto possibile, consumarsela questa energia elettrica. Metterla in rete non è che renda moltissimo, perché noi come utenti invece la paghiamo magari 15, 16, 17, è così? Certo. Infatti gli impianti di cogenerazione hanno la loro maggior convenienza quando la quota di autoconsumo risulta essere particolarmente significativa rispetto alla quota di energia elettrica venduta alla rete. Ecco, e ci sono invece dei vantaggi, diciamo, fiscali nell'acquisto, per esempio, del gas, se si passa da una normale caldaia a un sistema di cogenerazione? Sì, la produzione di energia elettrica attraverso un sistema di cogenerazione gode della defiscalizzazione del combustibile, in particolare il gas metano, sia utilizzato da un'utenza di tipo industriale che di tipo civile, gode di una defiscalizzazione che è circa il 70-80% in funzione dei rendimenti elettrici della macchina di cogenerazione rispetto alla caldaia. Parliamo sia di IVA che di accise, come funziona? No, parliamo di accise, parliamo. Okay. L'IVA è una cosa che dipende dal tipo di utilizzatore finale. Per quanto riguarda l'accisa, si distinguono due tipi di accisa, una di tipo industriale e l'altra di tipo civile. Quella di tipo civile sono circa 17 centesimi a metro cubo e l'altra invece sono circa 1,7 centesimi a metro cubo. È un rapporto di 1 a 10. Quindi, diciamo, è chiaro che c'è la defiscalizzazione. Nel campo civile la quota parte di risparmio economico sull'acquisto del combustibile risulta essere particolarmente conveniente, che si traduce in una miglior economicità del flusso di cassa generato dall'impianto di cogenerazione. Ecco, quindi se c'è un'utenza civile, per esempio una palazzina in teoria, piuttosto che un supermercato, che ha delle caldaie e sostituisce almeno una di queste caldaie con un cogeneratore, la fiscalità sul gas che utilizza per alimentarlo è più favorevole di circa 15 centesimi per ogni metro cubo consumato, è così? Sì, è esatto. Chiaro, ok, perché diventa qua, uso industriale. Tra le utenze civili possiamo annoverare non solo le utenze residenziali, ma anche le cliniche, gli ospedali, centri direzionali. Per esempio, gli ospedali sono molto avvantaggiati perché fanno molto uso di acqua calda sanitaria rispetto magari ad altre utenze. Esatto. Ecco, in questo momento la normativa però presenta, diciamo, delle asimmetrie tra utenze singole e utenze multiple. Ci spiega in cosa consiste? Consiste in questo, che soprattutto paragonandoci agli altri o a gran parte degli altri paesi europei, dove invece la normativa è, diciamo, è già più evoluta, no? Più favorevole, diciamo, più favorevole alla cogenerazione. Allo sviluppo e alla diffusione degli impianti di cogenerazione. In Italia, quando siamo in presenza di utenze multiple, come ad esempio i condomini, l'energia elettrica prodotta non può essere utilizzata dai utilizzatori finali. Facciamo un esempio molto semplice, no? Io ho un condominio con il riscaldamento centralizzato, voglio installare l'impianto di cogenerazione, l'energia elettrica prodotta dall'impianto di cogenerazione può essere utilizzata solo dagli usi comuni del condominio, cioè le luci delle scale, l'ascensore, il funzionamento della centrale termica e basta. In altri paesi europei invece l'energia elettrica può essere utilizzata anche direttamente da tutti i condomini dallo stabile. E questo è un bel vantaggio perché appunto l'energia elettrica viene messa in rete a 6 centesimi, ma quando poi noi la consumiamo la paghiamo 16, quindi voglio dire, è lì la perdita di competitività della cogenerazione in Italia rispetto ad altri paesi europei. Sì, per quanto riguarda l'uso residenziale sicuramente. Va bene, grazie Bergamini. Grazie. Bene, domani piccola lezione su quelle che sono le procedure per accedere alla detrazione fiscale del 55%. Un invito prima di chiudere, fateci domande, chiedeteci che cosa non vi è chiaro del panorama normativo per quanto riguarda efficienza energetica e rinnovabili. Buona serata a tutti.